forte. Se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte. Picchia più forte. Se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte. Ogni sorriso è un prezzo, perché devi pagare la cara vita che spezzo come zizze tra il charas. La felicità sta in mezzo alla gara, perché tra disprezzo e chi bara c'è un metro e mezzo. E una mano un col calcio di pelle chiara. Pallottole, un suono che colpisce dritto alle collottole, scoprendo l'accesso al nirvana. Amanti nelle botole, aprono cuori di amianto con la katana, scegliendo tra la differenza e le frottole. Se ti ama, se non ha la combinazione della cassaforte, perché picchia più forte di quanto chiava. La pace si ottiene dal suono prodotto nelle tue corde, ma tu pensavi solo al sangue quando strillava. Ed ora quella cella è più buia di te, isolamento forzato, perché non ti ha pagato il mondo che c'è. 10 anni girando i pollici tra zizze e penne forbici, ma il tempo cancella anche il destino oltre le tag. L'aria si respira a cubi, la si da un'ora, e per di star nudi, e se non t'aiuti sei un'altra persona che ti abbandona. Sì, tu, solo tu la colpa, quando quel giorno dicesti di sì, già ti diceva stronza. Picchia più forte, se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte. Picchia più forte, se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte. La distanza tra il proiettile e la canna, vista da sua volta ad una spanna, la mente si affanna. Se chi sgarra nella vita palla non rimane a galla, un'occasione deve farla sempre solo franca. Allora, manca allora di concentrazione oppure ha bisogno di una spalla. Cambia se nel frattempo tiene un cucchiaio e scalda. Vuol dire che sta tirando il remo in barca e sta aspettando che l'anima lasci la sua salma. È la legge del più forte, tu picchia più della legge. Il forte regge qua, trappola e consegge. Sapore di sangue, il visone pieno e la passione di una donna per una cosa che non ha freno. Alleno la mia mente, il fisico che ne risente, perché quello che penso al peso di tutta la gente. La gente pesa i propri grammi nell'ambiente, sono quelli che danno la felicità a una gente. Pensa che sia meglio smettere, lasciare le ultime lettere, per poi nel tempo non riflettere e non competere. La vita è una corda con nodo scorsoio, ricorda l'imbroglio e la passione mischiata all'odio. In mano olio, una moneta vecchio conio, mentre guarda quello scoglio e pensa a scrivere in un foglio. È l'orgoglio che svuota il portafoglio per il suo bisogno, ma intanto tira la sua corda da un vassoio. Picchia più forte, se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte. Picchia più forte, se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte. Nodi alla gola trattengono voci in crisi, scoppiando nelle canne degli organi nei campi elisi. Tu sei bellissima, lasci di stucco i visi, ma lei è bianchissima e dopo rilassa i visi. Gli occhi che ruotano sono due palle otto in buca d'angolo, i pensieri le bianche che ce ne mandano. I soldi, le altre quattro che rimangono e noi, bordo tavolo, stecche in mano con le finanze che piangono. Tra me e Andrea un abisso, lo stesso corpo che in abisso, quando ricordo ogni minaccia che ha fisso. MC come il suffisso, d'accordo, ma se canto del borgo non per forza resisto ogni pressione del cosmo. Io mollo, batto me, batto chiunque, la sfida con sé porta a te chi la raggiunge. Com'è che non mi funge, forse perché ho idee create in siti diverse da chi le scrive e poi fugge. Se tu marchi il territorio con titoli e targhe, io sono il primo ad andarmene, meglio scrivere barre. Beh, puoi impugnare pistole o corde di chitarre, memento mori, ti ricorda che l'uomo è fatto di carne. Sei debole per principio natura, commiserevole, dal primo respiro alla sepoltura. Segui le regole, che sia libero in dittatura, il tuo limite colonne d'Ercole, per quanto basta la cultura. Picchia più forte, se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte. Picchia più forte, se volano le mani allora picchia più forte. Se credi nel domani allora tira più forte. Vivo io muori te, che non ce la fai nella legge del più forte.